20 Ma ora in onda, allora, una stanzetta, E vabbè, ma sono orgogliosa di ospitarvi a casa mia. Una stanzetta rossa, tra l'altro. Sì, non è rosa, Alessio, tu vedi la sola. È legno arancione, c'è anche un tucano qui. Allora, è lunga storia questo tucano. Allora, non fate digressioni femminili. No, il fatto che stiamo registrando a casa tua, grazie. Prego. Ma non vuol dire che tu possa prenderti un dito con tutto il braccio. Niente. Quindi dai, facciamo mettiti questo al tuo posto, dai. Lì giù nel fondo. Fondo. Ma abbiamo uno scontro tra prime donne qui, mi pare. Nel fondo con la voce timida. Cioè, sono una donna, posso nel fondo del barile come al solito, con la voce bassa, tranquilla, timida e soprattutto umile. Devi ma io lo sono tu. Ma quando mai fa la finita che da quando fa la voce mi sta stretto lo stivale. Ti ho visto atteggiarti in mezzo alla strada. Intanto mi chiamate sempre. Io sono la voce di mi sta stretto lo stivale, la voce femminile. Sono l'unica donna dopo Alessio, cose del genere. Dai, falla. Dai, ok. Va ora in onda mi sta stretto lo stivale. Programma di Strazzullo Cremona. Ah, ti ho perché messo dopo? Per secondo. Perché dopo? Perché dopo? Dirige il maestro Corrado Parisi. Cremona. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Radio 2010, mi sta stretto lo stivale. Riccardo Cremona. Buona Pasqua da Alessio Strazzullo. Madonna, Alessio. Mangiate la cioccolata pasquale, ecco, che come... buono. Allora, informazione agli ascoltatori: come al solito, Alessio, davvero professionista qual è, sta mangiando un rimasuglio di nuovo di Pasqua. Ma non è vero. Come al solito, lui è un professionista in radio, mangia. Allora, quest'oggi registriamo da un altro posto. Non più a casa del mitico Fabio Milano, ma a casa della nostra voce, Eleonora Minucci. Quindi smettila. Finito questo pezzo, ti giuro, basta. Grazie. Registriamo da una camera di donne, di femmine, di ragazzine. No, adulte, però vabbè. Però io so che tu sei abbastanza felice di questo. Sì, vabbè, facciamo bordello. Innanzitutto, visto che questo bordello avete sentito, il nostro DJ, salutiamolo. Buonasera DJ, come stai? Buonasera. Sta bene, dopo aver fatto un bordello di pazzi qua. Vabbè, immagino la tua felicità di registrare una camera femminile. Cioè, vedo rosa dappertutto, foto di Johnny Depp che secondo me a te ti ispirano un po'. Ti senti un po' a casa tua? Guarda che io alle pareti non ho niente. Certo. Quindi proprio camera mia, no. Però... perché non puoi fare tutte figure con i genitori? Riconosco degli oggetti simpatici, tipo... Quello ricorda un vecchio mini pony, non so se ti ricordi mini sì, pony. Sì, mini pony. E questa cosa è bella, che tu sei così emozionato a registrare una casa piena di bambole, lo vedi le bambole? C'è paperino, un po' di bambole antiche. Mamma mia. Però ci sono un sacco di libri, ci sono, a differenza io vedo della un solo di letto. Milano. Vedo un solo letto, io so che in questa camera dormono due sorelle. Sì. Dove dorme? Sotto. Sotto, in questo qua sì. Sotto, nell'oculo. Sotto. Allora, c'è un letto che si tira, sì. E dormirà lì sotto. Sì, nell'oculo. Credo, spero almeno. Comunque penso. Nell'armadio, sai, la chiudono dentro la sera, sì. Lei gratta alla parete perché vuole uscire. Nella vasca da bagno che è comoda. Esatto. Poi non si squarciscono neanche i vestiti della ceramica della vasca. Diamine. Vabbè, comunque grazie per le foto, per la bellissima scenografia che oggi abbiamo. Johnny Depp dappertutto. Poi c'è un cappello da cavallerizza, è lì. E con le corna da diavolezza. Che io so che Eleonora, quello è tuo o di tua sorella? È suo. Okay. Vabbè. Basta. Fabio Milano intanto ammicca. Smettiamo chissà di, per quale di parlare motivo. Della scenografia femminile che Alessio ci sguazza dentro e partiamo subito con le... Ci sono dei ganci, eh? Smettila. Perché ci sono dei ganci? Sono da ricollegare a quel cappello? Ma smettila. Ah, per la zanzariera, ok. Sì, okay. Per la zanzariera. Smettila. Okay. Hai passato una buona Pasqua? Buonissima. Una abbiamo felice mangiato Pasqua. Come dei vitelli. Sì, abbiamo comprato di tutto noi. Da bravi cannibali abbiamo mangiato anche dei vitelli. Vabbè, è Pasqua che vuoi mangiare, scusami. No, è giusto. A Pasqua si una mangia Pasqua vitelli. Una Pasqua eccezionale. Buon vitello a tutti. Beh, partiamo subito. Allora, la prima notizia è... Le dici un paio di notizie tu all'inizio perché ho intenzione di prendere un altro pezzo di cioccolata? Prendi, ne dico due, vai, prendi. Okay, però partecipa. Certo. Allora, la prima notizia è proprio territoriale. Parliamo di Napoli. Come tutti ben sapete, hanno distrutto e hanno eliminato tutte le palme che c'erano a Napoli per colpa di quel famigerato virus, il punteruolo rosso. Non parlare, non è capibile. Era proprio un bagarozzo, eh sì, uno scarafaggio, un parassita. Grazie DJ, un parassita, bagarozzo, beh, un parassita, basta, no, basta. No, quello ho capito. È proprio una bestia, non è un virus. È certo, è un parassita che aveva attaccato le nostre bellissime palme che abbiamo, per esempio a via Marina, per via Caracciolo, e l'aveva praticamente distrutte perché le mangia, le uccide, quindi noi abbiamo dovuto... Anche a Viale Augusto qui dietro. Ah, anche a Viale ovunque. Augusto, grazie. Noi abbiamo palme ovunque, in effetti manco fossimo a Miami Beach. E comunque hanno eliminato tutte queste palme. La cosa più divertente è che adesso vanno sostituite. E il mitico Mattino che ha fatto ha indetto un sondaggio. Ma il Mattino, parliamo di grandi professionisti che da almeno 150 anni fanno il loro lavoro con un'abilità e una maestria e una professionalità che noi ci sogniamo. Sì, ci sogniamo. Allora loro hanno fatto un bel sondaggio dove dicono: cosa preferireste al posto delle palme? Dei pini? Delle magnolie? Dei lecci? Che non sia cosa sono i lecci? Lecci? Come no, come non lo conosci? Non farmi rispondere gli abitanti di Lecce perché sennò proprio siamo alla frutta. E poi la cosa bella è la casella che tu puoi segnare con sopra altro. Altro. Ma tu immagini, che ne so, via Caracciolo pieno di baobab. Anche dei baobab bellissimi. Oppure di, vediamo, di... dei banani, alberi di banani. Di salici piangenti, che tristezza. Poi là ci sono i barboni sotto. Abeti natalizi. Natale tutto l'anno. Qualcuno vuole consigliare Cipressi, i nostri betulle DJ. Basta, querce. Comunque immaginate il nostro lungomare rovinato con piante che ma non c'entrano. Ma piantate un'altra decina di palme. E basta, e poi l'anno prossimo torna il punteruolo rosso. E noi un'altra volta. Vabbè. Però senti, i lecci io non so cosa siano, non li voglio nella mia città. Io dico no ai lecci. No al leccio. Grazie. Allora andiamo avanti. Applausi sentiti. La notizia non è territoriale, è esterna, però è interessantissima. Sì. C'è proprio la manna dal cielo, la bontà divina, sì, ha donato a una donna 29enne inglese, una giovane ragazza inglese di nome Lauren Williams, non dico uno, ma dico ben due vagine. Se ne è accorta adesso, sì, a 29 anni. Si è accorta ad avere due vagine funzionanti, cioè nel senso due apparati riproduttivi, quindi tubi di Falloppio, utere e cose varie, e tutto due vagine nella stessa persona. Sì, lei giù ha due vagine. Quanta bontà nel mondo. Sì, ma come? Cioè, allora, una a fianco all'altro, allora, una dietro l'altra, no, una davanti, no, una dietro, questo una sopra, una sotto. Non lo so l'ubicazione, non credo che ce l'abbia in fronte, su questo stai sicuro. Però credo che là sotto, nei meandri dove c'è quell'altra, c'è anche una nuova. E la cosa bella è che lei ha il ciclo... Una matriosca, a così. Parte. Stai per dire una cosa disgustosa. Lei ha il ciclo mestruale... Che a me fa veramente schifo. E allora l'ha detto, una particolarità, su entrambe le vagine. Quindi lei, 21 giorni su 30 del mese, doppio ciclo, doppi dolori, doppio no, mal di testa, il fidanzato sarà felicissimo. Chissà se sono contemporanee le due cose. Spero di no. Cioè, comunque... Cioè, il ciclo è contemporaneo, secondo te, da ambo i lati... Oh mamma mia. E comunque è terribile, cioè. Oh mamma mia. Ma la cosa strana è che leggo sul giornale che lei è stata visitata da più medici, nessuno si è mai accorto di nulla. Ma questo è molto strano. C'è un'altra vagina, diamine. La vagina. Ma poi la lei vagina. Soprattutto, possibile che non abbia mai detto nulla. E la cosa bella che ci si chiede adesso è cosa potrebbe succedere in caso di gravidanza, perché lei ha ben due apparati riproduttivi che possono essere, cioè, può essere fecondato due volte. Quindi se è sfortunata, sì. Quindi c'è il dubbio. Comunque è un caso stranissimo e non si sa raccapezzare di questa cosa. Non so se essere contento per chi un giorno potrebbe diventare il suo compagno. Quanta bontà e generosità o nel la mondo. Sua compagna a quel o punto. Ancora più felicità. O là. Il suo compagno e la sua compagna. Hai ragione, potrebbe essere l'unica al mondo a poter concepire una porta 3. Serio. Mamma mia. Un po' per uno, siamo a posto, nessuno litiga, tutti quanti al centro dell'attenzione. Non so lei come, magari è un cesso di quelli. Non lo so come. Però due vagine, diciamo che... Cioè... Ci dovrebbe fare una ricerchina, ma so che... Come scrivi su Google? Due vagine. Donna, due vagine, foto. Trovi porno. No. All'impazzata. Sai potresti che trovare anche cose più spiacevoli, scrivendo due vagine. Sì, sai che internet è pieno di porno, tu lo sai. Andiamo avanti, salutiamo Lauren Williams, la donna con due vagine. Da oggi in poi sarà chiamata così. Che lei non gioca a tennis come le sorelle Williams. No, lei no, non gioca a tennis. Che cacchio c'entra questo? No, così. Perdere tempo stesso mentre cognome, notizia. Mentre cerchiamo notizie. Ah... Notizia una territoriale, gran bella notizia. Sempre territoriale questa. Vai, vai, illuminaci. Allora, allora, tu sai, no, che il prossimo 26 giugno a Napoli c'è il Gay Pride. No, lo sai più tu che io. No, no, io non simpatizzo con la comunità omosessuale. Simpatizzo, simpatizzo carina, perché tifo Napoli, ma simpatizzo per, uguale. Esatto. Tifo la vagina, ma simpatizzo per i gay. Tifo per le donne. Ok. Però i gay non è che mi stanno antipatici. No, neanche a me. Esatto. Pensa, ci conduco un programma insieme. È nata un'agenzia di viaggi, sì, per i gay. A Napoli. A Napoli. Per i gay, in che senso? Per i gay. Per i gay, Riccardo. Cioè, una solo per i gay. Sì, sì, c'è fuori c'è un'immagine, immagini con Rocco Siffredi, io no, non posso entrare. No, che significa? Che significa? A parte che non so se Rocco Siffredi ha mai... No? No, no, no, non toccare Rocco Siffredi. Viene qua, ci uccide con la clava. Non toccare Rocco Siffredi e me lo difendi così, inizio ad avere qualche perplessità. Vabbè, anche sui tuoi gusti. Comunque. Ma fa la fine. È il simbolo della verità italiana. Rocco a Praga, un filmone. Un filmissimo. Vabbè. Su Rete 4. Comunque, nasce questa agenzia per ospitare coloro che parteciperanno alla manifestazione. Sì. Quindi nasce per questo scopo. Per organizzare. Per organizzare. Però sono convinto che rimarranno anche abbastanza in pianta stabile. Quindi i gay che vogliono organizzare un viaggetto, visto l'imbarazzo di andare in un'agenzia qualunque e chiedere due uomini vogliamo una camera matrimoniale, esatto, e il letto che idromassaggio, esatto, e il vibratore a posto della Bibbia mezzo dentro il primo cassetto, sì, vicino al letto, vanno là e tutto vanno tranquillo lì, sono più tranquilli. Non lo so se è proprio così, cioè se effettivamente, ma altrimenti non trovo l'utilità, perché c'è, cioè, che cambia. Cioè, a meno che non ci siano dei posti nel mondo solo per, e noi il mondo etero siamo sconosciuti. Sì, io penso che forse così possano riuscire ad avere meno problemi per quanto riguarda l'azione di entrare in un'agenzia di viaggio. Sì, ok, meno non imbarazzo. Penso che poi, non penso che poi ci sia meno imbarazzo quando si chiedono cose un po' più particolari. Secondo me quell'imbarazzo resta. Resta comunque. Sì, sempre, sì, perché è una cosa umana, quindi no. Comunque... cosa molto interessante è che gli stessi responsabili dell'agenzia stanno lavorando a un progetto, cioè una nave ormeggiata nel Golfo di Napoli che potrà ospitare fino a 200 persone. Cioè una nave in pianta stabile. Sì, come un bed and breakfast marino. Per omosessuali. Suppongo di sì. Sì. Penso che se vai da loro e ti rivolgi da eterosessuale, non penso diciamo che ti mandi, non ti mandano via. No, quasi sicuramente. No, ho capito, però ti mandano in una nave piena di omosessuali, ti diverti poco. No, che significa diverti poco? Ci sarà una donna omosessuale lì? Che c'entra? Boh, magari. Per te forse, che sei donna, che ti piace una donna omosessuale, però... Vabbè, comunque è una cosa strana questa nave. Poi mi piacerebbe parlare dell'inventore. Sì. Di chi? Perché? Del responsabile dell'agenzia. Sì, che ha un cognome importante ed è proprio il tuo. Lui si chiama Carlo Cremona. Non so se Io conoscete. No, non conosco. Ciao zio. No, magari non conosco. Magari non ancora. No, non conosco. Ah, perché come non ancora? Magari non vi conoscete ancora. Vabbè, un giorno andiamo io e te. Invitiamo e facciamo... Carlo Cremona qui, ospite, sì, così ci parla del suo progetto. Ah, del suo cognome, penso. Comunque sembra un... Semplicemente una novità, comunque. Sì, una novità. Secondo me è una stronzata. Esatto, che non aiuta l'ho affatto. L'ho detto io, sì, non aiuta l'integrazione, sì, degli omosessuali. Cioè, però cominciamo con questo, poi cominceremo per gli autobus, esatto, per gli omosessuali. Ognuno fa quel che può. Ognuno fa quel che può, quel che riesce a fare per vivere meglio. È discriminazione sessuale, voglio che sia chiaro. Discriminazione al contrario. Sì. Come un film bruttissimo che ho visto una volta con Samuel L. Jackson, che era nero e lui faceva il razzista verso i bianchi. Ah, un film terribile. Mamma mia, una cosa proprio. Allora, ma Samuel L. Jackson ormai fa film, lo trovi in ogni film del mondo, anche in film con Lindsay Lohan. C'è una comparsata di Samuel L. Jackson. Però Lindsay Lohan. Vabbè, zoccola risaputa. Cioè, risaputa. Ogni giorno vedo anche foto lei in giro ubriaca persa nel le mondo. Le piace vivere. Sì, le piace vivere e distruggersi. Altra notizia adesso che devi leggere tu. Questa è bellissima. Secche snella. No, leggiamo il titolo, perché come al solito è il mattino a regalarci queste incredibili esperienze. Più sì, questi non sono titoli giornalistici, sono pure esperienze. Di vita. Allora, leggi il titolo. Ubriaco, giù dal quarto piano della Scalesi, ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli. Cioè questo è caduto, sì, da un ospedale, sì, e l'hanno ricoverato in un altro. Non potevo riportarlo su. Chissà che problemi hanno avuto. No, allora, questo non lo so, se è un errore del mattino, che potrebbe essere. Non penso, perché... Allora è un errore della sanità, cioè uno cade dalla Scalesica, un ospedale, quindi pieno, cioè ci sarà un pronto soccorso. Secondo me c'era così tanta gente che nel momento in cui questo era caduto, hanno occupato la stanza e quindi non c'era più posto. Questa è una frecciatina al nostro sistema. No, questa è la verità. Nessuna frecciatina, proprio. Quello si è ubriacato e portato a Cardarelli. Ma no, è terribile con questa cosa. Poi quello... è un ubriaco. Ma chi lo sa? Chi... Come si è ubriacato nell'ospedale? Come? Va bene, andiamo avanti. Ah, per la serie televisione di qualità. Sì. Qualità o morte. Ieri in televisione, nel bellissimo programma della bellissima e affascinante donna Barbara D'Urso. Ah, Barbara. Che noi amiamo con tutto il cuore. Barbara. E speriamo che venga qui. A braccia aperte la prendiamo. Sì. Una cosa di Barbara D'Urso, ma tu hai visto la faccia di Barbara D'Urso quando di fronte gli racconto delle storie terribili? Sì, no, ma è anche una faccia abbastanza apprensiva. Tira una faccia terribile, vorrei picchiarla sì, a sangue. Sì, sì, sì. Frustrata. Guarda, c'è solo una cosa che si può odiare di più della faccia di Barbara D'Urso quando le raccontano terribili esperienze di vita. Cosa? Allora, in quei programmi tipo Buona Domenica, sì. pieno di vecchie che ballano, sì, e tutte cose così. Qualità televisiva. Esatto. Telegatto. Ci sono quei momenti in cui si canta e si suona una canzone. E inquadrano le persone sugli spalti che iniziano a cantare e non sanno le parole delle canzoni. È una cosa che mi manda in bestia. E vabbè, questo è un tuo cruccio. No, e no, è perché tu le vedi là che parlano e cercano di dire parole a caso, poi si fermano e sorridono. Una cosa terribile. Ma pure i registi che continuano a fare queste inquadrature. Lo ma sai che vivono sanno, su queste cose. Che schifo. Comunque la puntata è prossima bastarde. La puntata che porterà sicuramente alla vittoria del telegatto per Barbara D'Urso. Ma sicuramente. Che è successo? Ha visto Gwendalina Canessa, ex concorrente del Grande Fratello. Sì. Anche lei rinomata e basta. Gwendalina era, come si chiamava l'amico suo là? Milo. Quello che è informatissimo. Quello là che io vedo mai dire Grande Fratello. Milo, faccio vedere spesso che questa Gwendalina è una donna di ampie prospettive, diciamo sì, così. Sì. Diciamo che se l'è fatto appoggiare senza problemi. Sì. È fidanzata con il mitico e il famosissimo Daniele Interrante. Il fratello, ah, fidanzata con Daniele Interrante. Il fratello gemello di Costantino Vidaiano. Il fidanzato di Costantino Vidaiano, praticamente. Sì. La fidanzatina. Sì. Oppure Costantino alla sua fidanzata. Non sappiamo, questo non ce lo chiediamo. So che sei curioso. Su tutti l'elemora, però. Su tutti l'elemora. Pachidermico che sta lì. Che è successo? In diretta televisiva hanno allestito uno studio ginecologico. Sì. Hanno messo la bella Gwendalina, che è incinta, che è interrante, seduta con questo lettino. Sì. E hanno fatto, proprio perché è un bel programma pieno di cultura, sì, una bellissima ecografia in diretta. Oh, che è bel eccezionale, programma! Eccezionale. E la cosa bella è che il mitico Daniele Interrante, vuoi sapere cosa ha detto? Mentre vedo l'ecografia, assomiglia alla mamma. Sì, sì, ma un tu cretino, sei un cretino. Un sei un cretino. Cretino. Come fa a assomigliare alla mamma? Avrà voluto fare la battuta. Cioè, io in quelle immagini di ecografia non riesco mai a vedere il bambino. È un casino, non si vede mai niente. Tu assomigli alla mamma. Ma poi soprattutto Daniele Interrante è quella tipica persona che dopo aver fatto un paio di programmi veramente disgustosi, ha deciso di credersi un intellettuale. Sì, sì, sì. Un intellettuale, con l'occhialino. Un intellettuale della peggior specie. Cioè, uno di quegli intellettuali che dice: non sono un intellettuale. Allora, ha rotto il cazzo. Bravo, affanculo. Dillo pure. No. Allora, ogni tanto me le sì, tirate. Dille. Se le merita. Dillo. Questi personaggi come Daniele Interrante meritano di essere mandati a fare in culo. Vai a fare in culo. Perché tu, fino al giorno prima, stavi con un crocifisso grandezza naturale al petto. Enorme, che tipo te lo vietava pure Bruxelles, ma non potevi venire. Fossi un criminale siberiano, capito? Allora ti mettevi qui e poi invece dal giorno dopo ho detto: amo, faccio un po' l'intellettuale, mi metto un attimo l'occhialino. E quindi vaffanculo. Vaffanculo. Tanto lo dice Grillo, vaffanculo, posso sì, dirlo qui. Bravo, poi Daniele Interrante è praticamente una calamita di vaffanculo. Sì. Cioè, quindi... e ne voglio un altro, vaffanculo. Ecco qua. Allora, praticamente vuoi sapere cosa ha detto lui? Ha detto, la bocca assomiglia a quella della mamma. Sì. Ma tu sei un cretino! È un'ecografia in bianco e nero, si vede una specie di sputo, come fa a essere? Daniele. E la Gwendalina, sai, Gwendalina è preoccupata per una cosa, perché il fidanzato, che è interrante, dell'uomo, un cellulare squilla... Un telefono che squilla, chi risponde? Qualcuno risponda. Cerchiamo. E Daniele Interrante, eccolo là. È Daniele Interrante che ci chiama per dirci vaffanculo. Possiamo metterlo in viva voce, così parliamo anche con lui al volo. Dai, al volo. Chi è? Al volo, rispondiamo noi, rispondiamo noi. Dai, dai, dai, rispondiamo noi. Mamma mia. A te o Mammucca di queste cose riuscivano alla grande. Allora, che è successo? Praticamente lui vuole partecipare al parto. Gwendalina no, perché dice che il parto è un momento brutto. Perché voi uomini, voi non sapete che la vostra donna, vostra moglie, vostra fidanzata, cacherà, defecherà, piscerà davanti a sette persone sconosciute. Le prime due cose sono più o meno le stesse cose. Sì, però vabbè. Urlerà e diventerà Satana. Quindi sì, non è così bello partecipare, sì, al ma patto. Ma io penso che suo marito o suo fidanzato, quello che è, voglia stare con lei. Ma io non voglio vedere. No, è una cosa terribile. No, io, sì, non, sì, io, sì, non io quando mia moglie partorirà un giorno molto lontano. Sì. Però sarò. Quando lì, finalmente sverrò, sbatterò per terra, sì, e mi dovranno ricoverare. Dipende dall'ospedale in cui sono. Se sono in un ospedale mi ricoverano in un altro. Però sicuramente sappiamo che tu quando tua moglie partirà un sacco di tempo, perché quando finalmente legalizzeranno i matrimoni omosessuali. Io non ho parole, Dai, non ho bisogno di dimostrare la mia virilità con lo studio con te, ma per un semplice motivo. Ah, io posso, allora, io vorrò, sì, però voglio stare dietro, sai quella cosa, quello che tiene la mano alla donna, però sta dietro quel telone che coprono tutto. Sì, sei un codardo. Non voglio vedere, mi amo. Codardo. No, non voglio vedere. È un fatto di codardia. Non voglio vedere, andiamo lì avanti. Invece, secondo me, sì, è in queste cose più che in altre che un uomo si deve dimostrare uomo. E sta lì, dà la mano, le fa aiuto. Un uomo sta lì con la sua compagna. Sì, vabbè. Grazie Corrado Parisi. Ma io, allora, io ho detto che starò lì. Sì. Solo che non voglio vedere. E che senso ha stare lì senza vedere? A quel punto guardi. No, ma che discorso, è un cinema? Può entrare un po' di telecamere anche. Ma no, questo è un cinema. La radio, facciamo poi la radio in diretta. Poi sai, se ti sei... Allora, signora, come si sente? Ah! Cosa così più. Ma come a quel punto devi... L'importante è stare lì, non guardare. Non hai bisogno che tu guardi. Allora, altra notizia, passiamo avanti. Basta questo programma bellissimo. Sì. Sempre sulla scena un po' cinematografica e televisiva. Parliamo di un vecchio film, tu forse te lo ricorderai, sì. Weekend con il morto. Ah, eccezionale. Erano questi due ragazzi che avevano ammazzato praticamente il loro capo, e per non farsi sgamare se lo portavano in giro, facevano, sì, una vacanza a questo morto. Un, sì, film esilarante, stupido però esilarante. Che è successo? La realtà è stata peggio del film. Che è successo? Che a Londra, sì, su un aereo, due donne, sì, hanno tentato di portare il cadavere del padre. Mamma. E imbarcarlo. Ma praticamente morto da quanto? Allora, loro sono stati fermati all'aeroporto di Liverpool. C'era un uomo di 91enne che era stato avvolto in una coperta e sistemato su una sedia a rotelle con un paio di occhiali da sole, proprio come il film, se tu te lo ricordi. Incredibile. Bene. E le due donne, che non la vedova e la figliastra, si sono presentate al check-in dicendo: "Shh, sta dormendo." Sì, allora evidentemente sarà morto da pochi, era morto da pochi minuti. Hanno detto, piuttosto che creare un problema. Sì, infatti, vabbè, a check-in sono accorti subito che è un morto e non stesse dormendo, è chiaro, ovviamente. È chiaro. Là con la bavetta, rigor mortis, te ne accorgi subito. Si pensa che praticamente loro non volessero evitare i costi per il rimpatrio di una salma. È chiaro, avranno detto. Noi diciamo che è morto, che sta dormendo. Così dopo non paghiamo niente. Scusi, hostess, non li porti a mio marito i biscottini? Tanto sta non dormendo. Soffre di diabete, dorme. Ed era morto da più minuti. La cosa molto divertente, secondo me, è il momento in cui bisognava poi fare scendere questo cadavere dall'aereo. Come facevi? Lo porto in braccio, dormendo. Gli abbiamo dato una pillolina per dormire. Ce lo mettiamo sulle spalle. No, a lui gli piace così, no, sta facendo uno scherzo, gli piace venire in giro, fa finta di dormire. Ma voi state al gioco. Che bella cosa, che bella madre, figlia e figliastra che tentano di far vedere. È giusto, si fa quel che si può. Sì, imbarchiamo un morto. Prossima notizia invece seria. Impostati. C'è stato il primo aborto praticato tramite pillola RU486. Sì, la pillola abortiva. A Bari. Ovviamente questa è la notizia veramente importante l'unica, della settimana. L'unica veramente importante è anche difficile parlarne in un... Vabbè, è un argomento spinoso, la pillola RU486, ci sono le ovvie due fazioni, sono schierate. Ovviamente. Chi è contrario e chi è favorevole. Ma soprattutto la cosa molto complicata è in ambito politico, in cui non sembra che ci possa essere effettivamente la decisione di considerare una cosa del genere senza considerare l'aspetto puramente religioso, che sì, poi questo è il problema. Il problema effettivo è questo, nel senso che molti istituti ospedalieri si sono rifiutati di somministrare la pillola. È il caso degli obiettori di coscienza. La legge permette agli obiettori di coscienza di rifiutarsi, quindi esatto, questo non, va, non è contro legge. Naturalmente la legge però che, noi, che è passata è che la RU 486 è utilizzabile in Italia con ricovero, però ricordiamo, perché, sì, certo, perché per sicurezza la, che prevede la donna, aborto, sì, non è un aborto, quindi non è una pillolina, non è una zigurì, e quindi c'è previsto prima il ricovero e la somministrazione di questa pillola che crea l'aborto alle donne. A Bari la prima e ce ne saranno e anche altre. La cosa, è, la cosa che ci deve far pensare è che è stata praticata dall'unico medico presente non obiettore di coscienza. Quindi si saranno rifiutati. Sto aprendo un discorso giuridico enorme. Come si garantisce una presenza religiosa all'interno degli istituti sanitari? Certamente. Si dovrebbe garantire un medico laico che sia disposto a esercitare determinati trattamenti. Che poi è così assurdo il fatto, perché la coscienza laica è come la coscienza religiosa, va assicurata. La cosa gravissima è che qui noi parliamo di una presenza di un medico laico all'interno, ed è una cosa assolutamente... Che medico deve essere sempre laico. In teoria stiamo parlando di una cosa... Però io voglio dire questa cosa, l'ho pure studiata, è che la coscienza laica è equiparabile alla coscienza religiosa, certamente, e andrebbe assicurata dappertutto, perché altrimenti una ragazza si presenta a Roma, non c'è neanche un medico laico disposto a fare questo trattamento, infatti, e si ritrova... Non può... Violazione della legge, violazione dei diritti fondamentali, c'è un casino di pazzi. E soprattutto quindi... non può fare una cosa che è suo indiritto, che fare, è suo diritto fare. Dato della donna, il diritto della donna di scegliere sì o no, anche perché l'aborto è legato a tante cose brutte, quindi è una notizia sicuramente che continuerà a far parlare di sé, non c'è dubbio, perché è spigolosa, le varie municipi, comuni, ognuno fa cazzi suoi, e quindi vi informeremo ancora e di nuovo sicuramente. Da un argomento medico all'altro. Sì, l'argomento medico, questo fa ridere. Guarda che questo è serio, eh. Allora, già questo stiamo parlando di una delle branche della medicina più stupida. Dai, non dire così. La dermatologia. Ma dai. Hai visto, cioè... C'è uno show televisivo, Scrubs, sì, dove a un certo punto lui dice: ho bisogno di un consulto dermatologico. E c'è il dermatologo che corre per l'ospedale. Attenzione, chiedono un consulto. Intanto, se hai un problema alla pelle e hai un tumore e non lo sai... Mio padre non è dermatologo e te lo sa. Ho capito, però che significa? Se c'hai un problema alla pelle e il dermatologo ti deve dire che hai un tumore, non c'hai il tumore. No. No. Ah, oggi applausi per me. E chi se no? Se c'è un tumore, un oncologo te lo sa dire se quello è un tumore o no. Sì, ho capito, ma un neo, che è semplicemente un neo che... Mio padre. Basta. Vabbè, basta. Dermatologo, se avete problemi di acne e di... Non è vero, ma non è punti così. Punti neri e forfora. Non è così. Siete pronti a andare a un dermatologo? Dermatologi. Tutti pronti soccorso. Dermatologi. Sì. Sono con voi. Sì, siete con voi. In tutti pronti soccorso c'è sempre un dermatologo. Basta, vai avanti. Allora, che è successo? Un dermatologo del Gemelli di Roma, se mi mette la notizia dirò meglio. Ah, addirittura hai bisogno della che notizia. Che ha detto che gli italiani... Non riesci a parlare così a braccio. Sì, ok, vuoi vedere, non mette la secondo notizia. Secondo me un dermatologo ci riuscirà. Dirò a pelle. Allora, a pelle dico che ci riuscirebbe. Allora, il dermatologo del Gemelli di Roma. Intanto qua fuori salutiamo in casa, Valentino Rossi che sta andando domenica inizia, al Qatar, no? Sì, incomincia domenica. Salutiamo Ecci al Qatar. Madonna, tristezza totale in questa radio. Il nostro DJ vuole dire qualcosa? Ti è piaciuta questa al Qatar? Alessio, siamo 5 persone qui, non è piaciuta a nessuno. Va bene. Anche la foto di Johnny Depp sta piangendo. Allora, la notizia è che un dermatologo del Gemelli, il Policlinico Gemelli di Roma, mitico, un grande professore, un professionista, ha detto che gli italiani si lavano troppo. Eh sì, mi sembra un ottimo modo questo. Perché il lavarsi troppo può creare delle dermatiti. Ma sì. Ma... Bravo, vedi, i dermatologi sono bravi. Uno che ti dice: signori italiani, voi vi lavate troppo perché il bagnoschiuma e i saponi hanno un effetto abrasivo e disseccante. Vedi gli studi, 5 anni di medicina per fare il dermatologo, mi che qualità. Conto, mi rendo conto però che rendiamoci conto che chi non ha una pelle estremamente profumata come la mia, sì, sempre profumata, sempre perfetta, sì, come no, può avere dei problemi. Meno male che siamo alla radio. E quindi, signor dermatologo, professorone, io difendo la categoria, ovviamente. Sì. Però se uno puzza si deve lavare. Cioè, diciamo una cosa, se puzzi ti lavi e passa. Fra uno che puzza e uno con un po' di pelle, un po' secchezza della pelle o un po' la pelle disidratata, laviamoci, sì. Bravi gli italiani che continuano a lavarsi. Mandiamo a cacare questo dermatologo. Malati ma profumati. Bravo. Secchi ma profumati. Secchi, la prossima ma pubblicità della qualche crema Nivea. Sì. Oh, non si può dire la marca. Mo ci denuncia. E vabbè, comunque aspetta, dermatologo sei un genio. Bel fax domani mattina la querela della Nivea che no, che Nivea dall'ente che protegge i dermatologi. Il nostro DJ è d'accordo con noi, ho sentito una voce dall'oltretomba. Sì, andiamo sì. Avanti, salutiamo il dermatologo del Gemelli di Roma, un ciao dermatologo del 8 del anni di Roma. Io dico una cosa. A 8 anni, ma è no, un genio. 8 anni di medicina. Ah, e poi che fai il dermatologo? Ma smetti. Yeah, come fa il dentista? Andiamo avanti. Tanti vai, dentisti vai. Ti salvano i denti. Ogni pronto soccorso. Vai, questa è una notizia che hai scelto tu. Chat roulette. Io non so cosa sia. Allora, la chat roulette è questa, come lo vogliamo chiamare, social network innovativo. Okay. Per cui tu ti colleghi, sì. Ti compare un bellissimo messaggio che dice: allora, anche se tu non lo stai facendo, si avvierà automaticamente la tua webcam. Ah, bene, bene. La privacy innanzitutto. Esatto. Sulla base di tutto. Esatto. Quindi uh-huh. Tu vieni catapultato in questo mondo pieno di persone davanti alle loro telecamere. La cosa e il programma sceglie random una sì. Delle persone che è connessa dall'altro lato. Questa cosa è quindi pericolosissima. Tu accendi, magari stai facendo qualsiasi cosa e ti trovi uno dall'altro lato che sta facendo qualsiasi cosa. Questa cosa è pericolosissima. Sì. Perché io uomo, sappiamo che il web al 98% è utilizzato per il sesso. Sì, da uomini tra l'altro. Sì, da uomini, per il sesso. Già non c'è niente da fare. Gli altri siti sono sciocchezze. Sì. Porno ovunque. Voglio cercare una bella donna. Sì. Quindi sono lì pronto. Mi impomato. Mi metto un po' di olio di, che schifo, di ass addosso. Sono pronto. Vai, random, ok. E compaio io. No, peggio, perché con una faccia da idiota che si è appena connesso per la prima volta, io non l'ho ancora fatto. E tu vai così, ma che cos'è questa cosa? Sono trovi stato, uno, sono diciamo che sta strozzando il nano davanti a te. Sono stato invitato, oh mio Dio, ma sarebbe un omicidio, ma quale pazzo farebbe un omicidio? Sono cretino. Allora, il problema, io non l'ho ancora fatta questa cosa. Sono stato invitato da un amico che mi ha detto, guarda, io sono entrato qui dentro, mi diverto da pazzi. Gente simpaticissima. Mi diverto da pazzi. Ma effettivamente c'è qualche storia simpatica. Tipo c'è quello lì che suona, uh-huh. La gente fa richieste, lui sì. Suona. Vabbè. E quindi è però particolare sì, come... può capitarti quello che ma suona. Sicuramente la prima volta che lo farò mi metterò fuori dal campo della webcam. Perché comunque mi dà fastidio che uno sconosciuto ti può capitare. L'uomo 50... Mi metto una maschera. La mia maschera di Rey Mysterio. Bravo. Se mi trovate su chat roulette, se trovate un Rey Mysterio su chat roulette, sono io. Perfetto. Trovate il quarantenne vestito in latex, tutto cuoio, anche la faccia, dedito al sadomaso, che si sta frustando. Magari, se ti va bene, si sta solo frustando. Se ti va bene, cioè, magari una bella ragazza, e trovi il camionista che non sapeva che fare, si è collegato con l'iPhone, vestito da ballerina. Vestito da ballerina e dice, chiamami Fifi. Fifi? Sai che belle storie che possono guarda nascere. Guarda che collo del piede. Guarda che collo del piede. Queste cose così. Sai che belle immagini. Io non vedo l'ora, di vederti su chat roulette. Accendete la webcam, ragazzi, perché la moda è questa. Potreste acchiappare Alessio Strazzullo vestito da Rey Mysterio e completamente nudo. Oppure la ballerina Fifi che guida il camion Romolo 72. Completamente nudo. Sì. Della Padova Milano, ricordiamo. Ah, arriva il tè. Ah, no, il caffè. Che delusione. Allora, io vedo una cosa. Voglio ringraziare innanzitutto Leonora Minucci che ogni volta ci porta il caffè. Mamma a noi uomini. Mamma mia. E il tè a voi omosessuali. Cioè, tu. Sì. Tra l'altro ho visto il tè alla pesca prima, mi hanno fatto vedere, non pensavo neanche che facessero il tè alla pesca, caldo soprattutto, quello freddo l'ho bevuto. Prima o poi questo caffè, tutto il caffè che prendi ti ammazzerà. Anche il tè, guarda, no, non cambia un cazzo. In confronto al fatto che il tè ne prendi un paio al giorno e di caffè ne puoi anche prendere 18 perché pensi che non faccia certo, nulla. Certo, prova a prendere 18 tè al giorno. No, 18 tè al giorno, sto dicendo, ma andiamo avanti. Vabbè, ringraziamo, l'ultima notizia è come al solito panico negli USA. Che succede? Succede che un signore... Il problema vero è che in America sono completamente pazzi. Sì, sono completamente pazzi. Che succede? Che lui è andato, stanno in una tratta a Washington-Denver. E dico che l'ho detta senza leggere per farti capire, no? Oh, yes. Guida, stava in una tratta a Washington-Denver. E ha detto, ma che non me la fumo sta sigarettina? E già questa idea è completamente sbagliata perché negli aerei non è che potresti fumare. Cioè, è vietatissimo. E va nel bagno come al liceo. sì, va nel bagno e si fuma la sua sigarettina. Ovviamente il bagno, dopo 30 secondi, scatta l'allarme antincendio. Poi in America sono completamente pazzi e impauriti, subito attacco terroristico. Hanno avvisato Barack Obama, che era sull'Air Force One a fare i cazzi suoi, che si fumava una sigaretta, non nel gabinetto, no, perché lui tutto può. E che succede? Succede che questo qui è uscito. Allora, va detto che questo qui è un diplomatico americano che sta all'ambasciata del Qatar. Poverino. Quindi lui ha i tratti somatici orientali. Ah. Quindi tu immagina, aprire la... scatta l'arma antincendio. Panico e paura, che 4-5 base americani del Texas che provano ad alzarsi e restano, sì, incastrati nelle sedie. Panico, attacco nucleare. Esce dal bagno uno che assomiglia a Osama Bin Laden. È dura, è dura. E lui, pieno di spirito, ha detto: ho provato ad accendermi le scarpe. Però... e perché sai per quella che si è accesa le mutande, voleva fare, sì, il simpatico anche. Adesso è a come si chiama? Guantanamo. Adesso è, no, Guantanamo rinchiuso perché è un cretino, perché... Però pure tu, dai. No, pure tu, americano, che fumi. A parte che secondo me quello già non ha... A parte che c'è una legge, non si può fumare, bravo, nei luoghi pubblici, non... Ma vai a parte a che io, conoscendo il sistema americano, sono convinto che non appena quello ha chiesto un volo con i tratti somatici orientali, sì, l'hanno controllato, il passaporto orientale, diciamo che là già l'hanno bollato. Poi figurati, metti pure a fumare in bagno col in fumo. In realtà per essere, se proprio vi piace essere... pericolosissima questa cosa. Allora, è appena Leonora... arrivato il tè in una tazza arancione, come il tuo mascara che c'hai oggi. Sì. E il tè, alla, aspetta. Ma che odore buonissimo. Un attimo, che odoro, che cosa è? Pesca. Sì, odora più o meno, grazie, come Leonora, quelle creme Nivea. Grazie, che... Leonora, grazie. Dicevo, negli aeroporti. Sì. Al gate, per farti controllare veramente tanto se ti piace avere rapporti ravvicinati con hostess o steward, a seconda che tu sia uomo, donna, etero o omosessuale. E, ti vieni pure, pure dovrebbe essere così facile. Se ti piace, basta farti crescere la barba. Sì. A me puntualmente, io perché ho questa, vabbè, io ho anche questa barba terribile che sembra la barba di un disperato. Sì, una scelle. Esatto. Mi controllano spesso. L'ultima volta in Francia, questo paese veramente terribile e odioso, i francesi mi stanno sulle palle. No, a me non tantissimo. L'unico problema è che tu parli in inglese, loro ti rispondono in francese. Se ti parlo in inglese vuol dire che il francese non lo conosco. Quindi che tu mi rispondi in francese, io non posso risponderti in una lingua che non conosco. Vabbè, potresti inventarti, che ne so, comunque, the champ. Dopo questa piccola digressione, insomma. Brioche, potresti parlare così. Voulez-vous baguette brioche? Lui ti capisce, vedete un po' cosa fate. Anche io la barba non credo di avere questi problemi all'aeroporto, perché la mia è rossa. E io... non si è mai visto un islamico con la barba rossa. E se si è visto l'hanno ucciso, perché... quindi sono solo io. E comunque bravi gli americani, che sono sempre impauriti. Bravi. Un grande paese, viva l'America. Vai là col passaporto arabo, come minimo ti tengono un'ora e ti controllano tutti gli orifizi del tuo corpo. Sì. Con tanto di auguri e gentili omaggi. Niente, prendiamoci una pausa. Buona Pasqua come al solito. Sì, è passato, io ci sto. Posso dire un aneddoto? Certo. Questa è bellina. Io vivo da solo, i miei genitori ormai vivono da un'altra parte. Sì. Sono venuti a passeggiare. Ah, sono loro ad essere andati e non tu. Sì. Sono venuti a festeggiare la Pasqua con me. Mio padre mi ha comprato un uovo di Pasqua. Sì. Mi ha portato un uovo di Pasqua della Bauli. Oh. Per le ragazze. Perché si è sbagliato. In giro. Si è sbagliato. Che cosa è uscito da dentro? Allora, potevo uscire un bellissimo bikini che io ti avrei regalato senza indugio. Grazie mille. Perché a me i bikini stanno da Dio. Sì, sarebbe stato benissimo, sono sicuro. Una touche? No, no, come si dice? Una touche, perché siamo uomini, quindi una touche, termine tecnico del rugby. Una touche. Sì. O un bellissimo portagioie. Ma il portagioie. A me è uscito il portagioie. Che cosa ci hai messo dentro? A mia mamma l'ho dato, che ci ho messo dentro? Mica sono come te. Io ci avrei messo tutti gli oggettini minuscoli che ho sulla libreria e non riesco a trovare un posto. Bravo. Tipo come lo stemma di Star Trek da applicare alle magliette. Vabbè, l'anno prossimo ti regalerò l'uovo della Bauli per le girls. Non vedo l'ora. Ecco, prendiamoci una pausa. Ciao, a dopo. Tu stai bevendo un tè, quindi sei ridicolo. Sì. Però io voglio per sfizio vedere. Poi ti dico anche sì. Io voglio per sfizio un po' chi sono i nostri antagonisti. Quale altre radio ci sono? antagonisti. Vabbè, gente che ha la nostra stessa passione, sì, per la radio. E sono curioso di vedere un attimo. Andiamo un po' in giro per il web a vedere un po' che radio c'è. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Facciamo un po' di... Questo è bello, c'ha un bel sound. Allora, quest'album è meraviglioso. Buonasera. Senti, è senti. Meraviglioso. Chi è? Buonasera. Che radio sarà? Qui è Radio Revolution. Radio Revolution. Io sono DJ Gigi Guevara. Bello, Gigi Guevara. Sono qui per voi. Ogni vostra richiesta è un ordine. È un mio sfacelimento per voi. Ma che radio è? No, questo è un pezzo molto bello. Mi raccomando, soffermatevi tutto quando copri il bonghetto. Ha ragione. Sentite il ritmo. Yeah. Facetevelo scorrere dentro le vene. Ma che radio sono? Bellissima, belli, grandi. Bellissima. È tutta così la radio. Io questo gruppo, se ci riesco, mi pago proprio a vedere. C'è già un bacio. Questa gente è bravissima. Veramente. Un album eccezionale. Veramente, però, ma veramente bravo. Stile allora, musicale, come sapete, su questa musicale. Radio è arrivata a un certo punto. A udate le 5 e mezza. Iniziamo a ricevere delle telefonate. E vediamo un poco cosa ne pensa la gente, vediamo anche il popolo cosa vuole sapere. Le telefonate. E voglio una gamba vanno bene a me a Bascio. Vediamo un po' chi chiama. Che bello, allora apriamo le telefonate. Miche, Arabto Ghost, va. Abbiamo telefono, ce n'è una. Aspetta. Niente, Miche, ma come stai via? Nel frattempo fai un'altra cosa, l'addredo che stai solo tu. Bravo, frate. Allora, ragattino, bravo. No, frate, ne tengo il cartino. Allora, ci sono da ieri sera, ma con tarantella. Allora, vai scendere. Allora, no, non posso scendere, sto fornendo il cartino. Allora, io direi... dovremmo chiamare. Comunque, continuiamo questa bagaria, ci stiamo divertendo questa sera tutti insieme, stiamo arrivotando. E io vorrei dire solo un'altra cosa. Prima, nel frattempo, Michele, senti a me, nel frattempo lascia sempre la tutto, apri sempre tutto. Chiamiamo noi, è il caso di chiamare. Siamo una radio internazionale, quindi non ci facciamo mancare niente. Il caso di chiamare, il caso di chiamare. Ricordiamo il streaming, che è su streaming? In pratica, tu registri, noi mo stiamo parlando, tutto questo va registrato su questa alta tecnologia che ha sui computer. Mamma mia, sono papà a pezzo, però fammi spiegare su fatto, allora. Siamo tutti su internet, no? In pratica io piglio e registro. Io piglio e registro. Allora, poi tu che fai? Tu utente medio. Utente, non utente. No, però dente. No, né dito e né quell'altra cosa. Medio, cioè si buono e non si buono. A me diciamo fa ridere, così. A me fa ridere. Certo, Van Goppa Internet. Apri la pagina di Radio Revolution, che la ricordiamo, www.radiorevolution.it e vieni e ti scarichi questa bellissima puntata. Allora, nel frattempo vogliamo ascoltare la regia, un altro pezzo. Preghiamo la regia di metterci Michele, con Radio Revolution. Michele, come ti? Mi avvisano dalla regia che ci stanno a telefonare. Allora, apriamo. Pronto, salve. Ciao, GG. Quando ne siete? Ciao, buonasera. GG. Io sono GG Guevara. Ciao, buonasera. DJ fatto per voi. Ti seguiamo sempre. GG, sei grazie, un mito. Grazie, vi voglio bene. Noi siamo compagni come te, GG. Vi voglio bene. Sei stato compagni di classe, frate, no, ma te chi lo sa, ma come no, ti chiama? GG, compagni comunisti. Mica chiama chi sa, da zucca. No, compagni. Ah, ho capito, compagni, grande compagni. Compagni Mao, grande, Stalin. Grande. Vabbè, addirittura. Grande. Sì, compagni, in quel compagni, modo. Compagni. Compagni di rosso, allora, mettiamola bravo, così. Bravo, grande, GG. Allora, GG, ti volevo fare una domanda. Dimmi, tutto allora, quello che vuoi tu per i compagni, ma era proprio pietto e te rongo cuore. Bravo, GG, la domanda è questa, GG. Ma te zinta, già rispondi. GG, GG. Dico. Allora, tu hai presente noi combattenti che noi abbiamo avuto negli anni di piombo, quelli che hanno fatto la... Mamma mia, come erano passando l'anno di piombo, frate, mamma mia! Quelli che hanno fatto la riappropriazione del patrimonio proletario. Questa è una cosa importante. Ti ricordi che hanno combattuto? Mi ricordo. Ragazzi, non sai niente. Zitta, cosa ne pensi? Cosa ne pensi del mitico Battisti? Guarda, qua devo rispondere serio, perché comunque è un artista rispettabile, ha fatto le sue cose, ha il suo perché. Battisti, grande Battisti. Sì, sì, grande, grande Lucio, ce lo vogliamo sempre ricordare così. No, qua Lucio ha combattuto le sue battaglie con la Lucio. Musica. No, no, mi dispiace che adesso non c'è più, perché sennò ci resta a stringere la mano. No, Battisti sta in Brasile adesso, no, come non lo sai Battisti? Evidentemente sta facendo qualche gems con qualche senso, qualche lunata. Ma no, ma sai, non... tipo è Buena Vista Social Club, frate. No, mamma mia, stanno a Cuba, non in Brasile. Infatti, Cuba è patria. Ma stanno spostando, fanno tour. Cuba è la soluzione. Cuba. Gente come te, Cuba è la soluzione. Cuba è la soluzione. Cuba è la metà finale, frate. Non dico. Ma frate, schiusci. Gege, ma noi stiamo parlando di Cesare Battisti. Cesare ragazzi. No, Cesare Battisti. Cesare ragazzi, facevo le acconciature, tipo mio. No, facevi le parrucchine. Facevi certo capello, mamma mia. Erano una fila a mezzo che pareva che tenevo un rivolto. Erano finti. Dici qualcosa sulla nostra generazione. È vero. La nostra generazione. Alla nostra generazione non capisce manco caso. Non capisce più nulla. Proprio. Tacite sì. Gege, noi compagni che dobbiamo fare? Noi ci dobbiamo imporre a questo popolo. Noi dobbiamo iniziare la rivoluzione da dentro. Da dentro dove? Da dentro cosa? In tuo stomaco, da dentro proprio dalle viscere. Le viscere della terra. No, è viscere nostra, ne capisci? Sai quando mangi male? Comunque, torniamo a noi. Dobbiamo andare tutti. Dove? Dobbiamo vedere tutti in piazza. Quale piazza, Gege? Ah, dobbiamo fare rivoluzionare. Ci tutti quando a piazza degli artisti alle 4:30. Gege, ma piazza degli artisti è Omar. Appunto, dobbiamo rivoluzionare. Questa radio è nata per questo. Noi, la rivoluzione, che la mappa da dentro. Tutto sommato, la sua idea mi piace. È rivoluzionare la rivoluzione. Esatto. Ma chi è questo? No, no, siamo sempre noi, Gege, non ti preoccupare. Siamo noi due, sì, ma tu, ma come vuoi chiamare? Tu non mi hai detto il nome, si prende. E Riccardo Mao Zedong, così puoi chiamarmi. Mao Zedong. Sì, sì, come lo tiene tante, Mao Zedong. No, Mao Zedong. Mao Zedong è lo cinese. Gege. Ma Mao Zedong è il cinese. Gege, io sono Alessio. Ma quindi sei Riccardo cinese, Alessio, no. Alessio. Io sono. Ah, ma tu sei Giovannina Basci Trecase. No, Trecase non è proprio zona mia. Senti qua, e invece sulle droghe, come ci poniamo sulle droghe? È vero, sulle droghe. E come c'è mai pure? Se cocaina dopo uno con asa, si è una canna mette in mano a cupudello, come devo pure? Va bene, Gege, no, ma le droghe non vanno utilizzate. Sono pericolose. Sì, sì, fanno male. Abu. Ma chi è questa gente? Sanno paura. Ma chiamano a me. Comunque Gege, dai, seriamente, dai, sì, seriamente. Sono serissimo. Gege, ti piace fare la radio? Sono mai stato così sera con Mugnono. Gege, ti piace fare la comunione, Gege? Come? Se per il regalo te la sei fatta fare la comunione. Cosa? Sei religioso? Per avere il regalo hai fatto la comunione. No, a me ero viscerillo, ma hanno buttato mamma e padre. È giusto. Senti qua, ma ti piace fare la radio? Guarda, è un modo per esprimersi se stessi. Poi una cosa bella. Ma che cazzo ne sai? Ma che domanda mi facci? Ti sono qua. Ma sì, bello. Vabbè, ma da dove registri, Gege? A Vascio Scandinata. Come a Vascio Scandinata? Puro proletariato organizzato. Ma quale Scandinata? Di chi? È un amico mio. E come si chiama? Allora, si chiama Michelino il Corto. Sì. Anche se è alto 2,20 m. Ah, è un nomignolo sfottò. Esatto. No, perché te un piccolo. Ah, quindi è reale. Sì, sì. Come Pipino il Breve. Esatto. Ah, mi piace. Gege, dimmi una cosa. Quanti avete molti spettatori in questa radio? Guarda, non lo so. Io queste cose poi non me le che me le cago moltissimo. Cioè, io sono là. Me le cago. Che verbo è? Cioè, che verbo è me le cago? Sono lì. Io parlo. Conosci qualche altra radio web? Qualche tipo, noi per esempio ogni tanto ascoltiamo Radio 2010. Ma chi le sono scemo, frate? Chi le sarà azzuccato che ci bello? Chi è me? Ma come? Perché io? Oh, ma che le dici un sacco che si non sa? Ma che ti piace il programma tipo The Bug? Ma io non ci capisco niente che lì cosa. Cioè tu quando dici invece lo telefonino tengo la cabina telefonica. Ma non è che ce la tengo in una sacca grossa. L'abbiamo scassinata l'altra volta. Oh, perlomeno non sei uno di quei comunisti che potena i miliardi a casa. A meno questo. Ma qua miliardi. Poi frate, il programma con la cinematografica mira, meno vinto. Radio 2010 fa un bel programma che si chiama L'Artiglio, quello dei film, ti piace? Ma chi va a su cinema? Chi dice? Ma purtroppo i sordo stanno, fratello, non ha mai contro a sicco. Tu, ti cagna maglietta. Io sì. Ma quando ti cagno, non te le cagniamo, ma quando ti cagno, quando si è cattato in mutande ultimamente? una settimana fa. E te si cagnato stamattina? No, cagnato o comprate? Cagnate, si cagnato stamattina. Oi, no, non mi ha fatto. Ti ha dato il cattanamo, tu hanno dato la rimise e mezzo. Ma perché? Perché devi andare contro a questo scopo, cioè non devi comprare. Non ma poi io puzzo. E chi sono fotto, però hai capito? Cioè, non si deve comprare. E poi comprare. Le donne non mi vogliono. Le donne si trovano sempre, non è un problema. Quando hanno di... 23. E trovo sempre qua, tu sei guaglione, frate. Perché tu quanti anni hai, Gege? 24. Sì. Gege, un'altra domanda sempre su Radio 2010, che a noi però piace assai. Io ho il cagnato l'altro, cioè, ma che è? Ma il cioè, programma che fa spesso uno aspia, che aspia, aspia, aspia, aspia, sì. Ma è bello. C'è un programma molto bello. Ma frate, rubutate la diretta, frate. C'è, bella, frate. C'è un programma molto bello di attualità, no? Che fa le cose un po' come te. Si chiama Mister Stretto lo Stivale, ti piace? Ma se sta stretto su stivale, accanto di un più largo, frate. Ma che domanda stiamo facendo? Non ti piace? Questo sono... buono, frate. Dice sono bravi. Quelli presentatori sono bravi. Ne sentiti come sono bravi i presentatori? Non ti sono simpatici? No. No? Cioè, già dice la verità, no. Qua invece hanno un bel programma, no? No, no. Ma non ci stanno simpatici. Vabbè, stanno... quindi... Guardate, ma quelli non parlano mai del sociale, ma che non ci vengono a toccare noi? Cioè a noi ci dobbiamo ribellare questo mondo che ci va contro. Quindi anche contro Radio 2010. Contro tutto, noi non dobbiamo spirituare. Non dobbiamo spirituare. Non dobbiamo consumare. Riccardo, io non mi ammaccate mai, ammaccate bottiglie, non mi fa niente. Capisci, ah, ma sei sì. Voglio fare uno scherzo. Già, ma da stasera? Sì, sì. No. Sì. Mannaggia, c'è cascato. Sì. Che cosa sì? Sì, sì, ma dopo. Già, ma da stasera? Ma non capisco, frate, no, ma tu sei chiazzo accademico, ma... Dai, basta, basta, basta. Già, sai chi ti saluta? Chi saluta? Sto cazzo. Ah, bello, sai, ci sta basciorione, ha rubato sempre. Vabbè, chiudiamo. Vabbè, comunque salutiamo. Ciao, tutti Gege, alla prossima, alla prossima. Noi ti ascolteremo sempre. Grazie, Gege. Grazie. Forza Battisti. Voi, vabbè, forza Lucio. Viva Lucio. Ciao, Gege, ciao, Gege. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. E dopo questo incredibile che belle radio contributo, dopo questo incredibile io però contributo, approfondiremo, noi continueremo perché approfondiremo. Gege Guevara è un personaggio bellissimo. E niente, siamo alla fine perché abbiamo impegni vari, anche radiofonici, quindi tenimo che sì, fare. Sì, oggi abbiamo, cioè, più voi non tardi, potete saperlo. Voi non potete saperlo perché però la puntata uscirà domani. Sì, però noi oggi stiamo lavorando per voi, avremo cioè, Fabio Milano sta Fabio lavorando per hai voi. Hai ragione, Fabio Milano sta facendo un sedere quadrato per una diretta direttamente dagli USA. Dagli USA, United States of America. Per la Apple, ci per sarà la Apple, sì. Il nuovo firmware, io non capisco niente di queste nuovo cose. Film della Apple. Il nuovo firmware. Era una ride, molto bene. Era una ride fuori campo, non pensando che siamo una radio, quindi non dovrebbe ridere, che si ascolta. Vabbè, grazie, un'ora. E niente, salutiamo tutti. Salutiamo tutti quanti. Ricordiamo il sito. www.radio2010.com Da Riccardo Camo, adesso Sterzullo, siate curiosi, ciao. Dieci, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,